Tempo di sport con Carlo Genta. Amici ascoltatori, buonasera a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Puntata che secondo me sarà interessante, io lo spero per voi, che potete ovviamente intervenire come sempre. 800 24 00 24, il numero verde. Tanto per cominciare, perché per la prima volta del 2011 ho qui Andrea Zorzi, cui faccio di persona gli auguri di buon anno. Grazie Carlo, ben ritrovato. Ciao. E ben ritrovati. Andrea, ti piace il calciomercato? Ne sono affascinato. Anch'io. Il che non significa che mi piaccia, ma ne sono molto affascinato e ho già un paio di domandine da fare all'altro ospite. All'altro ospite che vi presento subito, perché questo sarà uno dei temi di questa puntata che avremo insieme, da speciale calciomercato di Sport Italia, e qui Michele Criscitiello. Ciao Michele. Ciao, grazie. Carlo, buonasera. 16 giorni alla fine per chi non ama il mercato. Sì, come vivi questo personalmente e professionalmente questo periodo dell'anno? 3 cellulari e poi ovviamente si va a dormire tardi la notte, ti svegli prestissimo per quanto riguarda le trattative. Ovviamente bisogna stare sul pezzo, e sul pezzo significa anche parlare in questo momento di Milan, di Criscito, l'incontro Adriano Galliani con Enrico Preziosi. L'importante è anticipare la notizia, non importa di quanto, però la devi anticipare. È un mercato interessante perché quando ci sono pochi soldi si fa più interessante, per il motivo semplice che devi inventarti qualcosa. Sì. Sappiamo che in Italia abbiamo poca fantasia. Guarda, mi viene subito in mente un mio amico che si è inventato delle magliette che ho scritto Barboni di lusso. Perfetto, ha vinto lui allora. ha stravinto. Ha già vinto. No, ma poi su questa storia di Galliani, Criscito, eccetera, eccetera, si legge anche tra le righe. Ieri ero con un mio collega milanista, sente Galliani che dice: ma Criscito non lo so, col Genoa stiamo parlando, lui: l'abbiamo preso. Ha ragione. Eh? Se Galliani dice così, ha ragione, perché ormai l'amministratore delegato dei rossoneri non si sbilancia così tanto quando non ha un obiettivo. Poi si è sbilanciato in positivo per Criscito, in negativo per Mark van Bommel. È una trattativa che noi su Sport Italia, speciale calciomercato, abbiamo seguito poco, nel senso che difficilmente un Milan che vuole fare un restyling al proprio centrocampo con almeno 6 calciatori in scadenza contrattuale vada a prendere un calciatore in scadenza del Bayern Monaco ad una certa età, in più non può giocare neanche in Champions League. Galliani è stato chiaro e categorico: ci crediamo, no a van Bommel, nonostante la proposta sia arrivata da un procuratore fedelissimo quale Mino Raiola, il famosissimo Mino Raiola. Invece su Criscito la trattativa è più che avviata. Lunedì l'incontro con Preziosi, attenzione perché c'è un giro di terzini sinistri che adesso si muove a catena, perché il procuratore di Criscito è Andrea D'Amico, lo stesso del terzino sinistro attuale del Milan, Luca Antonini. E a questo punto Antonini potrebbe essere un'ipotesi per la Juventus, con Beppe Marotta, che ha avuto Antonini già alla Sampdoria. Hai capito, Andrea? Bella, prendo spunto dal fatto che lui, noi abbiamo dei giornali davanti e qualche appunto. Sì. Lui c'ha un oggetto molto più tecnologico. Sì. Non ha schierato i 3 cellulari. Ma la domanda è: la tecnologia e lo sviluppo della tecnologia ha creato un mestiere nuovo, perché solo in questo modo potete essere sul pezzo in ogni istante. La domanda è: come vi scambiate informazioni senza dare vantaggi ai vostri giornalisti avversari? Allora, innanzitutto specifico, sono qui con oggetti non per fare campagna pubblicitaria, ci mancherebbe, però io dirigo un sito che è di calciomercato 24 ore su 24, in questo momento quello sto controllando. Non si dorme mai. Non si dorme e si chiama tuttomercatoweb.com, se si può dire. Sì, come no. E da questo poi tutta una serie di siti con web TV, e quindi la notizia, quando non sei in diretta televisiva, nel nostro caso su Sport Italia, che sei dalle 19 alle 19.45, abbiamo un canale monotematico e poi hai la fascia di calciomercato dalle 23 alle 24, però il sito puoi dare la notizia, questo è il bello della tecnologia, in ogni secondo. Per questo mi metto nei panni di giornalisti di carta stampata, sono un po' spiazzati soprattutto sul mercato. La notizia in evoluzione, Adrian Mutu ad esempio, una notizia che nell'arco di 24 ore è cambiata 10 volte. Non si presenta all'allenamento, il Cesena chiama, il procuratore che dice non ti allenare che domani vai a Cesena, lui che dice no ma io a Cesena non voglio andarci, la Juve che sente che va via da Firenze, e poi scoppia il caos. In 6 ore è cambiata 6 volte questa notizia. E allora come ti scambi i messaggi? Allora, con i procuratori via SMS o qualche telefonata, però molte volte devi essere presente negli alberghi milanesi, perché ti dicono qualcosa che soltanto nel momento in cui ti guardano negli occhi ti possono dire. Al telefono, dopo lo scandalo Calciopoli o non Calciopoli nel 2006, i procuratori al telefono hanno paura, non parlano più. E questo è un problema. Gli investigatori. Porca miseria, incredibile. Sai, hai sentito quella storia degli israeliani che hanno creato questo... No, non la sai? Non la so. Che hanno creato questa società che praticamente spia i giocatori, no? Procura dei dossier, chi vuole prendere un giocatore. Diciamo, questo tipo, questo qui com'è? Va in giro la sera, beve, fuma, si comporta bene, è un bravo ragazzo. Hanno creato questi dossier, no Michele? Come funziona? Ha dato questa gatta da pelare agli israeliani. Pensa un po', questa storia qui è veramente incredibile, con tanti saluti alla privacy, eccetera. No, a me che affascinano invece sono da morire sono questi personaggi. Lui ha citato Mino Raiola, che è un califfo assoluto del genere, no? Però si vedeva l'altra settimana questa conferenza stampa, a tratti anche molto divertente, della gente di Mutu, che dice sono arrivato lì, baci abbracci, e poi hanno cominciato a insultare il giocatore, eccetera. Sono personaggi curiosi, questi. Perché li definisci curiosi? Come li definisci? Perché non è facile definirli in modo univoco. No, assolutamente, era per capire perché. Sono curiosi. Curiosi, beh, di sicuro il mercato gira intorno a loro. Bisogna anche puntualizzare che la figura del procuratore in Italia è così importante. Da altre parti, invece, sappiamo che la figura del procuratore c'è, ma non come nel nostro panorama calcistico, anche perché l'unico paese dove si incontrano in un albergo per fare trattative ufficiose e ufficiali è l'Italia. Benvenuti in Italia, qui tutto è consentito. Il procuratore in questo momento è forte non tanto sul fatto che comunque dal passaggio di un calciatore percepisca il 5% sul lordo. È molto molto importante, rimango ovviamente nelle trattative ufficiali, certo, non andiamo oltre, certo, per quel che concerne naturalmente il mandato per vendere. Se io oggi, procuratore, vado in Argentina, il club Boca Juniors mi dà la possibilità di vendere il calciatore in Italia, lì ci guadagno un botto di soldi. Ah, certo. Altra situazione, certo, che ovviamente tutto è lecito e tutto consentito, a volte in un'operazione ci sono anche più procuratori. Esempio, Cannavaro che va via e va a giocare in Arabia Saudita, ha un procuratore, o meglio due, Gaetano ed Enrico Fedele. In quel momento però lui va via grazie ad un mandato che viene dato ad un altro procuratore, che è Andrea D'Amico, e conclude l'operazione. E allora nell'operazione guadagnano due procuratori, chi con il mandato a vendere e chi per la procura. Io ho sbagliato mestiere, mi sa. Sì, tutti insieme. Voi vi ricordate il Pinnacolo? Sapete cos'è il Pinnacolo? Cioè? È quel gioco, ricordo un po' la scala 40, sì, in cui tiri solo le carte, poi devi metterle giù, poi tirare su quello che c'è sul tavolo per tentare di fare altri tre scoppie scale, ed è un gioco in cui alla fine ti ritrovi con tante di quelle carte in mano perché non puoi più buttarle giù. Sì. Mi viene in mente che il calciomercato sia alla fine questo tavolo immenso, invece che dalle carte hai dei giocatori che devi distribuire, questo lo metto qui, no non ci sta, aspetta che lo prendo, lo metto di là, lo mollo, e poi finisce la partita perché il tempo è finito e no, qualche volta ti restano in mano dei giocatori. Questo è il calcio, cioè più che adesso sembra quasi che le partite del sabato, venerdì, la domenica eccetera siano il contenitore, questo sia il contenuto, è una cosa incredibile. Michele l'ha detto, perdonami. Andiamo sul traffico, così stiamo nei tempi. E poi ti voglio anche chiedere, già te lo dico, invece dall'altra parte cosa vuol dire essere al centro del mercato dove tu ci sei stato? Sì, ma vent'anni fa era pallavolo. Lascia perdere. Traffico, poi c'è anche Roberto, provincia di Teramo, 800240024, numero verde, Andrea Zorzi, Michele Criscitiello, a dopo. Ecco che torniamo, Andrea Zorzi e Michele Criscitiello, qui con me c'è Roberto dalla provincia di Teramo in linea, tra un istante lo faccio parlare, poi maestro Andrea Zorzi ha scovato un'altra magnifica storia di sport con l'aiuto di Cristiano Bartoloni, poi parliamo anche di questa perché abbiamo una scheda da farvi sentire. Roberto, buonasera. Sì, buonasera, sono Roberto, 40 anni, sono di Milano, ma vivo a Teramo, interista. Senti, io chiamo per avere un attimino una delucidazione, se è possibile. In questi anni si continua a parlare sempre degli investimenti eccessivi fatti dalla squadra dell'Inter, ma se vado a ripensare agli ultimi 3-4 anni e vado a vedere quanto hanno speso per ogni singolo giocatore, mi sembra che squadre come Juventus e Milan abbiano fatto degli investimenti sicuramente superiori. Che poi il numero di giocatori comprato dall'Inter sia sicuramente un numero superiore rispetto a quelli comprati dal Milan, non dalla Juventus, perché ultimamente anche la Juventus sta comprando tanto, è una cosa differente. Però mi sembra che l'investimento come valore non sia così tanto superiore rispetto alle altre squadre. Mi sbaglio o invece ci ho azzeccato? O no? Faccio rispondere a Michele Criscitiello. Allora, in questo momento l'Inter ha fatto un discorso piuttosto interessante da parte del presidente Massimo Moratti in vista del fair play finanziario. A mio modo di vedere ha sbagliato forse i tempi, quando doveva spendere un qualcosina, ma questo non vuol dire, quando fai mercato puoi anche incassare dalle cessioni eventuali di Maicon e Milito, che qualcuno diceva probabilmente hanno già dato tutto nel club nerazzurro. Per quanto concerne naturalmente gli investimenti, tu puoi cedere e puoi acquistare. Dopo Mourinho c'era bisogno di un piccolo cambio generazionale, poi è arrivato l'allenatore sbagliato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, e allora l'Inter ha pagato. Però un calciatore come Milito non puoi fare una plusvalenza quando ha 32-33 anni, allora la devi fare nel momento giusto, dopo che ha fatto benissimo tra Champions e campionato. Il prossimo anno Milito non lo vendi come lo potevi vendere al 30 giugno di un anno fa. Lo stesso discorso della Juventus, oggi tutti parlano ma la Juve non investe, ma la Juventus non spende. È sbagliato, la Juventus negli ultimi 3 anni ha speso cifre folli per il calcio italiano e di sicuro è stata una delle società che ha speso di più. Adesso quando Andrea Agnelli dice io non vado extra budget, ha ragione lui, non aveva ragione John Elkann un anno fa, non si può andare extra budget perché devi risolvere i problemi e gli errori commessi in passato, cioè l'estate scorsa. Adesso è giusto che arrivi Floro Flores, non puoi prendere Forlan perché devi buttare altri 15 milioni di euro, è giusto che arrivi Floro Flores e i tifosi devono capire perché, perché hai sbagliato in estate, adesso non puoi riparare e ogni volta 15 e altri 30 e si va fuori budget e così il calcio italiano va alla deriva. E certo, è un messaggio difficile a far passare ai tifosi che sono lì col forcone, perché a loro interessa vincere e loro hanno sottolineato mille volte come la Juventus ha sbagliato, risbagliato e adesso dicono adesso è il momento di cacciare il grano e di vincere lo scudetto. So che hai ragione tu, ma l'hanno speso male il grano, 12 milioni per Martinez, non li ha cacciati certo un altro club, li ha cacciati Beppe Marotta per la Juve. Assolutamente. Come si sente essere al centro del mercato da giocatore? Beh, dunque io ho avuto esperienze non tante, 4 volte ho cambiato squadra, da Parma a Milano a Treviso a Macerata, trattative brevissime, dirette. Ho avuto un agente per poco tempo negli anni di Milano, poi dopo alla fine erano direttamente con me e avevo la possibilità di dire guarda questa è la mia proposta, sì o no. In genere era sì, cercavo di fare una cifra che fosse quella che pensavo potessero accettare ed era finito, però non c'erano questi strani meccanismi, questi risico quasi mondiali che invece adesso caratterizzano il mondo del calcio. Però, ripeto, c'era il cartellino però. C'era il cartellino, sì, c'era il cartellino, ma poi alla fine è accaduto. Io da Milano mi sono mosso perché Milano stava per chiudere, da Treviso perché era consensuale l'allontanamento e poi a Macerata ho smesso di giocare, quindi... Però davvero insomma erano altri tempi, altro sport e non c'era questo interesse, che però ripeto per me te ne stata, se ne parlava prima, la notizia di Mutu alla Fiorentina è stata ribattuta, anzi rilanciata 10 volte in un giorno. Questo significa che nel corso della giornata i tifosi ma anche i giornalisti hanno un sacco di occasioni per tornare sullo stesso luogo, che sia un sito, che sia la televisione, quindi tiene vivo l'interesse rispetto a una partita che dura 90 minuti che potrà cambiare un po' di volte, però poi è finita. Quindi non c'è dubbio che dal punto di vista dei media il mercato è una fonte inesauribile di notizie continue, o no che siano. Certo, ma poi soprattutto appunto ora ha una velocità pazzesca, quindi bisogna ancora trovare il media giusto per stargli dietro. C'è un esempio, casomai, se volete, visto che siamo in diretta, i vostri utenti e radioascoltatori sono interessati. Facevi l'esempio di Adrian Mutu, allora faccio quest'altro esempio. Oggi 13:48, Espanyol Victor Ruiz destinato alla Premier, va in Inghilterra, lo dicono in Spagna, 14:54... pochi minuti, contate quanti sono, dalle 13:48 alle 14:54, Napoli vicino all'accordo con l'Espagnolo per Ruiz, o va in Inghilterra o va in Italia. Chi in Italia dice che va a Napoli, chi in Spagna dice che va in Inghilterra. Tutto questo nel giro europeo, dalle 13:48 di oggi alle 14:54. Lo stesso calciatore, notizia diversa, battuta in due maniere differenti. Però esistono fonti che sono più credibili rispetto alle altre. È lì che ti giochi la partita. Bisogna ovviamente acquisire e acquistare credibilità, affidabilità, ma nel corso del tempo. Ovviamente se vai su Marca, su As in Spagna, sai che Marca ti può dare qualcosa in più di As. Se vai sul News of the World in Inghilterra, sai che 99 su 100 è... tra virgolette una buffonata la notizia, perché puntano su altro. In Italia non posso fare nomi perché ovviamente siamo nel gioco della concorrenza e chi vince più partite non posso fare nomi, però quando vai all'estero sai che quel sito è più credibile di un altro. Ad esempio, non per fare propaganda ma in generale all'estero, un sito che è interessante interessante per quanto riguarda i numeri, piuttosto indicativo, è Transfermarkt.de in Germania. Poi sulle notizie in Italia ce la giochiamo e non parliamone, dai. Sulla carta stampata, l'equipe in Francia come si comporta col calcio mercato? Abbastanza bene, però allora, quando dà una notizia, ad esempio a settembre per gennaio, è piuttosto credibile. Invece si perde, a mio modo di vedere, quando il mercato è aperto e va un po' in confusione. E questa è un'altra differenza da fare, perché quando devi progettare, la notizia arriva in maniera diversa, con più calma, e la puoi anche constatare, verificare. Tanto va a gennaio, quindi possiamo, abbiamo questo tempo. Il discorso è completamente diverso quando sei a gennaio su gennaio, perché sai che qualcun altro sta seguendo la tua stessa notizia, e allora per la fretta di darla subito, altrimenti buchi e te la bruciano, allora tu non fai le verifiche opportune e dai una notizia spesso fasulla. Ragazzi, io adesso obbedisco a Walter che mi manda un messaggio, 349-238-6666, dimmi i risultati di Serie B, obbedisco e poi voglio parlare con voi di grandi vecchi. Risultati di B, Albino Lefe Triestina 1-1, Grosseto vince 2-1, Adascoli, Cittadella Portogruaro 1-1, Empoli batte Frosinone 2-1, Novara Padova 1-1, il Modena vince 2-0 a Piacenza, Sassuolo batte 1-0 il Livorno e il Varese asfalta il Torino 3-0, Vicenza-Atalanta 1-1. Novara, Siena, Atalanta 43, Varese 38, Livorno 34, il posticipo è Crotone, Regina. Grandi vecchi dunque, ragazzi. Buffon, domani gioca, l'ha detto oggi Del Neri, è tornato, si riprende i guantoni, si riprende la porta in pianta stabile, però non si sa se dura. Totti, domani gioca anche lui, però oggi Ranieri ha detto se devo rimetterlo a 4 minuti dalla fine lo rifaccio, perché non mi importa... Tanto con il capitano siamo d'accordo. Mi sembrano casi interessanti questi, Andrea. Sì, emblematici anche. È veramente molto, molto complicato riuscire a gestire in modo fluido la parte finale della carriera, soprattutto se si è stati grandi, grandi campioni. Ci sono varie possibilità, non c'è un modo corretto. L'importante è che l'atleta e chi gli sta intorno abbia le idee piuttosto chiare. Faccio l'esempio di Totti. Se Totti decide che il suo obiettivo è restare in campo il più possibile, è chiaro che deve essere rispettato per il suo passato e per ciò che può dare, ma poi accetta tranquillamente l'ingresso a 4 minuti dalla fine, come capiterebbe a qualunque altro. Se non è in grado di accettare questa cosa, ne può parlare prima con Ranieri eventualmente, ma non creare intorno a lui un comportamento diverso rispetto agli altri. Quindi a me sembra che l'unico modo, se sei in campo, per essere veramente utile alla tua squadra, sia quello di accettare le regole più o meno come sono quegli altri. Più o meno è solo perché uno di 30 e passa anni potrebbe avere qualche attenzione un po' diversa sulla durata dell'allenamento. Se vuoi essere utile con un ruolo diverso, ti sposti, decidi che diventi uno che aiuta, uno che dà una mano, però sì. Esci, se sei giocatore devi essere giocatore fino in fondo. Sì, e quello che sta intorno, cioè l'opinione pubblica e l'appoggio che hai da parte delle tifoserie che comunque controllino con il tuo atteggiamento? È totalmente fuori controllo. La reazione dei tifosi, dei giornalisti, che ovviamente sono poco interessati a ciò che possa essere più o meno utile e anche più o meno giusto, loro sono interessati a trovare la notizia da pubblicare e se possibile fare anche un po' di marasma attorno. Questa è la complicazione del calcio, perché nessuno è interessato a ciò che può essere utile o giusto da fare. Io penso quindi che occorre fare veramente chiusura verso l'interno, decidere qual è un comportamento che viene percepito per essere coerente e su quello ti puoi muovere. Una squadra funziona in genere in base a quanto più è semplice riconoscersi i propri ruoli senza differenziazioni. Questo potrebbe significare che se un atleta, pur esperto e anche molto bravo, non è però in grado di reggere lo stress, la competizione e la fatica, deve pensarci seriamente. Michele? Farei un distinguo tra due, o meglio tre casi, Buffon, Del Piero, Francesco Totti. Anche qui mi ricollego un po' al calciomercato perché la situazione contrattuale penso sia determinata. Innanzitutto Buffon è reduce da un intervento importante, per questo è rimasto fuori, Gigi Del Neri non ha avuto un buon comportamento e neanche la società con Beppe Marotta nei confronti di un simbolo che comunque può dare ancora tantissimo alla Juventus. Può dare molto di più Buffon rispetto a Totti, che ormai sappiamo, vediamo, purtroppo spesso cammina in campo e ha una posizione contrattuale molto forte dalla sua parte. 2014, scadenza contrattuale, guadagna non tanto ma tantissimo, e questi soldi la Roma probabilmente ha dati a capitano per una forma anche di riconoscenza per quello che ha fatto in passato e non tanto per quello che sta facendo nel presente e per quello che potrebbe, uso il condizionale, fare in futuro in attesa di una svolta societaria alla S Roma. C'è un altro caso, quello di Alessandro Del Piero, che sta pensando più al rinnovo contrattuale che al campo, anche se comunque non gli viene concessa spesso l'opportunità di esprimersi. Basta vedere Napoli, addirittura Del Neri gli ha preferito uno come Amaury, che non giocava da un bel po' di settimane. Del Piero in questo momento sta ragionando con la società per un rinnovo contrattuale a rendimento. Lui non va bene, il fratello agente sta trattando per conto suo, però questi grandi campioni devono essere anche grandi persone, vogliono dimostrare il bene, l'attaccamento alla maglia. L'attaccamento alla maglia si può dimostrare anche fuori dal campo. È inutile che per andare avanti vuoi ancora gli stessi soldi, tanti soldi. Certo. Devi anche un po' adeguarti e capire che il tuo periodo, il tuo ciclo potrebbe essere, se non finito, ma comunque può essere passato. Sono d'accordissimo. Michele da Napoli, poi ci fermiamo un attimo. Buonasera. Buonasera, salve. Dica. Io colgo l'occasione, perché c'è Criscitillo che è un esperto di calciomercato, per fare, come dire, una domanda diretta rispetto a quella che è una delle più belle realtà di questo campionato. Sì. Cioè il Napoli, per il quale ovviamente io tengo, e quindi a mezz'ora anche da questo importante appuntamento, diciamo, fare delle considerazioni sul mercato del Napoli e sulle sue ambizioni reali. Sì. Appunto, prima Criscitillo accennava anche al suo sito, dove vediamo che, quindi noi lo teniamo sempre sott'occhio, c'era una notizia contrastante rispetto ad esempio all'acquisto del difensore centrale Ruiz, e mi rivolgo direttamente a lui rispetto al fatto che nel distanza di mezz'ora sono uscite due notizie differenti circa l'acquisto di questo giocatore. Ma poi entro nel merito invece riguardo alla scelta del centrale che Napoli sta facendo, con la mia personale opinione, ossia il fatto che di fatto forse a Mazzarri la scelta di Hindler non è che gli garba tanto, al di là, oltre al presidente, per quelle che sono le richieste di come dire, del Pozzo, presidente dell'Udinese, di Pozzo, che potrebbe ritrovarsi, come dire, in mano una nuova vicenda simile a quella di D'Agostino. Sì, allora facciamo rispondere a Michele Criscitillo, anche perché tra poco mi devo fermare un attimo, Michele. Sì, sarò brevissimo. Innanzitutto, la notizia di Ruiz, alla quale faceva riferimento Michele da Napoli, non è colpa in questo caso dei giornalisti, è soltanto che in Spagna hanno una notizia che riguarda l'Inghilterra e quindi un trasferimento verso la Premier. In Italia, anche se oggi abbiamo letto Tutto Sport, quindi facciamo dei nomi tranquillamente, il Napoli è favorito. Io penso che il Napoli, come abbiamo sempre detto anche su Sport Italia, il calciatore è stato seguito e interessa al Napoli, però di fronte ad una proposta così importante economica, il Napoli è ancora un passo indietro. È lo stesso discorso che valeva per Criscito. Quando tutti dicevano Napoli Criscito quasi fatta, Napoli Criscito ci siamo, abbiamo sempre detto attenzione, Criscito guadagna troppo, il Genoa vuole troppo, il Napoli non vuole sforare il budget. Hiller piace a Walter Mazzarri, ma l'Udinese, sia per Sanchez che per Hiller, fa un discorso piuttosto importante. Se io vendo sia l'uno che l'altro, smantello la squadra. Guidolin adesso ha costruito una formazione impregnata sul centrocampo e su un 4-4-2 già assestato, e allora ha rinviato tutto, le due cessioni, a giugno, cosa più probabile. Mentre l'unico che doveva essere in uscita, infatti lunedì va alla Juventus in prestito con diritto di riscatto, è Antonio Floro Flores. Riguardo al Napoli, Napoli sta sondando diverse piste, per il momento non ne ha chiusa neanche una, è un po' in difficoltà sempre per il discorso del prezzo. Economicamente non vuole scendere alla condizione degli altri, e comunque possiamo dire che ha anche ragione De Laurentiis, perché bisogna guardare al campo, alla classifica, ma il budget alla fine è quello che conta di più per i presidenti e per le società e non per i tifosi. Assolutamente. Ci fermiamo un attimo, ma poi torniamo con Andrea Zorzi e Michele Criscitillo. State lì, anzi chiamate 800 24 00 24, lo aspettiamo qui. Dunque torniamo, qui vicino a me Andrea Zorzi, Michele Criscitillo da Sport Italia. Stiamo parlando di mercato, economia, massimi sistemi, tanto che c'è Ilaria che domanda ma quando arriva Sebastiano Barisoni. Sto ascoltando Focus Economia, vero? Ascoltatore andata a Treviso, Francesco da Milano. Andrea, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a voi tutti. Dica. Ma volevo inserirmi sul vostro ragionamento della gestione dei campioni in un'età avanzata. Io credo che ci sia un esempio in questa stagione abbastanza calzante, no? Il signor José Mourinho va fin da giugno, va a Madrid e probabilmente incontra, in uno dei suoi primi passaggi, incontra il signor Raúl, che non credo sia una figura molto diversa da un Totti, un Del Piero, un signore che ha vinto 6-7 campionati, un paio di tempi, eccetera, e sicuramente presumo gli abbia detto: caro Raul, tu sei la storia di questo club, ma per me in questo momento, se tu vuoi rimanere, rimani, sappi che sei l'ultimo degli attaccanti. E il signor Raul è andato allo Schalke. Io credo, lo dico anche al tifoso interista che ha vissuto i primi anni di gestione morattiana, no, con la gestione di questa persona fantastica che è Moratti, ma con la debolezza poi societaria, no? E quindi i giocatori gozzovigliavano attorno alla generosità del presidente. Sì. Io credo che senza una stabilità e una forza di società che a sua volta dà una delega stabile e forte a un allenatore, siano veramente difficili gestire questi casi. Il caso del signor Totti, a mio parere, è abbastanza emblematico. grandissimo giocatore, ma a mio parere, visto dall'esterno, io non sono romano e quindi non ho tutte le emotività dei romani, ha a mio parere tenuto imprigionato l'ultimo decennio della città di Roma, perché secondo me, questo è il mio parere, lui non ha mai pensato realmente ad andarsene da Roma, ha sempre giocato dialetticamente, avrei potuto avere 20 proposte, sicuramente è vero, ma lui non ci ha mai pensato, perché secondo me è un grandissimo giocatore, ma di una grande pigrizia sua personale. Aspettavo, se voi ricordate dopo la partita che lui fece col Bayern di Monaco, quando la Roma giocò a Monaco, la sera stessa il signor Totti, capitano, disse il nostro gioco fa schifo. Io sinceramente l'indomani mattina io mi sarei aspettato le dimissioni del signor Ranieri. Se voi ricordate la società come reagì, la società certo, ma lì è una... No, ma lei ha ragione, perché è una vicenda, è una situazione, una vicenda molto complessa. Questo intreccio sembra quasi un braccio di ferro, no? In questo momento tra Totti, Ranieri, la tifoseria, insomma, sono vicende molto complesse. Diceva pigrizia di Totti, che adesso addirittura dice potrei andar via, ma dove va? Allora, il radioascoltatore in questo caso è stato piuttosto critico, duro, e ovviamente non ci possiamo accodare proprio con le singole affermazioni, anche se il concetto è molto molto condivisibile. Io penso di essere piuttosto d'accordo, nonostante sappia di attirarmi ovviamente il parere negativo di tutti i tifosi della Roma, o almeno dell'80%, però parlava degli ultimi 10 anni, se non sono gli ultimi 10 sono gli ultimi 5, comunque Totti ha influito forse in maniera positiva senza dubbio, ma anche in maniera negativa. Bisogna dire che Francesco Totti influiva nelle scelte dirigenziali della famiglia Sensi, e soprattutto delineava quello che è l'equilibrio dello spogliatoio giallorosso. Lo spogliatoio giallorosso riguarda l'allenatore, perché Totti non ha avuto solo problemi con Ranieri, li ha avuti anche con Luciano Spalletti, li aveva avuti con Luigi Del Neri per quel po' di tempo che c'è stato Del Neri sulla panchina della Roma, aveva avuto problemi con Antonio Cassano, poi aveva litigato con Marco Borriello. E allora Totti gli è stato consentito tutto. Ultima puntualizzazione, Totti ha detto sempre sì, io resto alla Roma perché sono un simbolo, ha ragione, e di questo gli va dato atto, perché è una bandiera della Roma, però nel... ha avuto sempre tutti i benefici del caso economicamente, e non solo economicamente, quindi naturale, resti a casa nella squadra per la quale hai sempre fatto il tifo, però a suon di milioni di euro. Certo, non so se sia pigrizia, certamente è per lui la situazione ideale, no? Tieni conto che secondo me i giocatori si adattano allo spazio che gli viene concesso, e il ruolo più importante che ha la società è definire per bene i contorni di ognuno. Questo è ciò che è decisivo. Se tu lasci un sacco di spazio, un sacco di autonomia, inevitabilmente il giocatore, l'atleta, si adagia su questo spazio. E quindi per una società forte è quella che riduce il più possibile quelle zone di conflitto, quegli spazi ibridi che sono pericolosi. Io magari sono un po' maniacale nel pensare che occorre definire per benino il tuo compito e su quello tentare la collaborazione, il lavoro insieme. Ma definire per bene, sei giocatore, sei allenatore, sei uno che aiuta, che ruolo hai? Più una squadra è brava, più una società è brava a definire questi ruoli, più ha possibilità di vincere con continuità. Sicuro. Francesco Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Avevo un paio di domande veloci. Magari ne avete già parlato, ma vi ascolto da poco. Per quanto riguarda le prime in classifica, secondo voi qual è la più forte con gli 11 titolari? Secondo me è l'Inter. E invece qual è la più forte con al netto delle panchine? Per esempio il Napoli sì, sta facendo un grande campionato, però non ha avuto ancora infortuni o comunque giocatori di vertice, Lavezzi, Cavani, che sono stati fuori per una settimana, due o un mese, come purtroppo la Juve, e anche l'anno scorso, non so, ricordo 85 infortunati, quest'anno lo stesso. È un discorso difficile, insomma, difficile da fare al netto delle panchine, perché insomma la profondità delle squadre è oggi, per lo sport di oggi, un valore assoluto, soprattutto se hanno le coppe da fare. Sono abbastanza d'accordo anch'io sul fatto che l'Inter sia quella con l'organico forse più completo. Michele? Sono d'accordo con voi, l'Inter nell'11, Inter prima, Milan poi nella rosa completa, nettamente distaccate sia il Napoli, la Lazio e la Juventus, perché se contiamo anche la panchina, ed è quello che stiamo dicendo dal 31 agosto quando si è chiuso il calciomercato, Napoli sei forte ma hai 12-13 calciatori, è questo quello che bisogna dire a Walter Mazzarri, ma questo è stato un rischio che ha corso Walter Mazzarri, perché lui sia a Livorno, a Reggio Calabria con la Regina, a Genova con la Sampdoria, storia ha sempre lavorato con 12-13 calciatori. Finora è andato tutto bene, perché quei 13 calciatori sono di un tasso qualitativo abbastanza elevato nel Napoli, soprattutto nel pacchetto offensivo. Quando però vedi la Lazio perde la prima partita e soprattutto il primo sforzo, allora viene meno. Attenzione, perché il Napoli ha due competizioni, se non tre addirittura, sì, se consideriamo la Coppa Italia. C'è quell'Europa League che l'anno scorso ha fatto malissimo alla Lazio. L'Inter comunque oggettivamente ha molto molto in più nell'11. Andrea Zorzi è uno, adesso volevo parlare un attimo di un altro argomento, tanto bravo. Funziona io, così. Voi, perché voi parlate, sai, dal, funziona così. Pensando che la prestazione di un atleta sia in qualche modo statica, definibile. Ma quando mai? No, cioè, potenzialmente si potrebbe dire che se gioca come ha giocato l'ultima volta, quella squadra è più forte. Ma siccome non è così, la prova è che ad ogni domenica, ogni partita è un mondo nuovo. È una domanda alla quale è almeno complicato rispondere. Quali parametri assumi? Il fatto che tu ricominci sempre da zero. È vero che c'è un talento che definisce un giocatore probabilmente più forte di un altro, ma poi ciò che cambia veramente le partite, che fa vincere, che fa perdere, è ciò che tu riesci a fare in quell'istante. E partire dal fatto che questo sia in qualche modo programmabile o progettabile mi pare essere la partenza sbagliata. Senti Andrea, tu resti critico, ti ho sentito la settimana scorsa, ma altro argomento del giorno, quello dei grandi ritorni, anche perché poi abbiamo questa scheda che in cui tu hai scovato un grande ritorno, allo sport. La sentiamo dopo il traffico per ragioni di tempo. Ma sei sempre convinto che il ritorno di Coach Peterson sia stato qualcosa di non così positivo? Per il movimento in generale, sì. Per Milano invece è positivo, e lo è sotto vari aspetti. Risultati, mi pare, sull'interesse che ha portato, sul mercato, anche vero, c'è anche nel basket un mercato piuttosto importante. Però ho l'impressione, sempre, siccome io amo abbastanza il tentativo di rendere molto definiti i ruoli, una volta che Dan Peterson, contro il quale ci mancherebbe altro, è una persona che conosciamo piuttosto bene entrambi, gradevolissima, intelligente, anche molto bravo, però torna dopo un sacco di anni ad allenare, creando ancora più confusione attorno al ruolo, all'ipotetico ruolo di un allenatore. Cos'è un allenatore? Come si deve comportare? Dan Peterson butta a gambe all'aria ancora questo ruolo adesso, in un ambiente che già fa fatica a capire cosa bisognerebbe fare, mi sembra che non sia esattamente un buon segnale. Dopodiché, per Milano e per lui, forse la scelta pare essere vincente. Michele, come lo vedi questa storia? Allora, io ovviamente sono parte in causa perché ho Dan Peterson a fianco di scrivania Sport Italia. Io posso dire come ho visto Peterson prima, come l'ho visto dopo. È un leone, come una persona che è contentissima di fare questo lavoro e di aver capito, perché lui l'ha sempre ammesso anche quando non allenava l'Armani Jeans Milano, quindi fino a 3 settimane fa, il mio errore più grande della vita qual è stato? Quello di lasciare 25 anni fa, non ho capito nulla. Dan Peterson io penso sia un grande. Il problema non si deve fare una domanda a Peterson, casomai, come diceva giustamente Andrea, è il sistema basket che si deve fare la domanda, perché ha bisogno ancora di Dan Peterson. Peterson però sta facendo bene, e penso, avendo seguito e seguendo un po' il basket più che per lavoro, per passione, anche a livello di tecnica e di tattica si vede subito la mano di Peterson, perché meno difesa, più attacco, almeno da quello che ha fatto nelle prime due uscite stagionali Coach Peterson, in vista della partita di domani contro Pesaro di Dalmonte. Peterson è un simbolo, è un personaggio, ed è la dimostrazione che può dare ai giocatori, che tanto i giocatori buoni, penso me lo confermerete voi, Milano più o meno ce le ha tra le prime 2-3 squadre d'Italia, dopo Siena, se la gioca con Bologna probabilmente, però Peterson ti può dare quella svolta emotiva che mancava, e soprattutto in Eurolega Milano perché ha fatto brutte figure? Perché mancava di mordente, mancava soprattutto di grinta. Peterson invece questi ragazzi li ha plasmati, non tanto sotto il profilo tecnico ma soprattutto sotto il profilo emotivo, e lui riusciva a motivare anche noi colleghi quando prima di una trasmissione. Missione. È un grande, ti fa sentire comunque partecipe di un progetto, ti dà una carica, una spinta emotiva che davvero tira tutto fuori, quello che poteva tirare giornalisti e colleghi e anche giocatori. Ovviamente non posso che parlare bene di Dan Peterson. No, almeno io, quindi non c'è dubbio, però ha ragione Andrea quando dice interroghiamoci sul fatto, tutti contenti, ma siamo sicuri che sia un segnale di forza? Prova ad immaginare quando offrono a un atleta che ha appena smesso di allenare, quando offrono a situazioni, cioè dov'è alla fine la professionalità, qual è il ruolo, in che modo si riesce a definire se uno è bravo o se non è bravo, solo dei risultati, che è quello che succede, allora viene fuori che va bene tutto, basta vincere, basta perdere, uno diventa bravo o scarso. Tentare di definire quali siano le caratteristiche positive mi sembra essere una buona opportunità per l'ambiente intero, per Milano, ripeto, è una scelta vincente sotto molti aspetti. Chissà qual è il messaggio però che viene colto in giro. Mi aspetto che qualcun altro richiami adesso uno, non come Dan Peterson, bravo per davvero, ma semplicemente perché è convinto, e così fa piacere ai tifosi, si appella alla storia. Questo è il rischio. Caro Michele, cari miei, dopo il traffico ti faccio raccontare, ti racconto una storia di un ritorno incredibile. Di quelli belli. Di quelli belli. Io non la sapevo, poi te la racconto. Traffico! Dunque, Andrea, ho un ascoltatore che è arrivato subito che ti vorrà rispondere sulla questione Peterson. Però prima volevo farvi sentire questa storia di un grandissimo ritorno che ho scoperto grazie ad Andrea Zorzi e Cristiano Bartelloni. Voglio farvela raccontare da questa scheda. Quattro chilometri di corsa non sono poi molti, ma possono diventare un'impresa se il tuo nome è Monique van der Borst. Olandese di Gouda, una cittadina non distante da Rotterdam, a 13 anni è costretta su una carrozzina da un incidente d'auto. Non si perde d'animo, monta su una handbike e inizia a vincere. Nel 2008 un altro incidente. La paura di perdere tutto di nuovo è grande. Ma Monique non si scoraggia, risale in sella e conquista due medaglie d'argento alle Paralimpiadi di Pechino. Nel 2009 il suo capolavoro, vince l'Ironman Triathlon alle Hawaii, una prova che prevede 4 km di nuoto, 180 in handbike e per finire una maratona con la carrozzina da corsa. Batte anche gli uomini e viene nominata atleta disabile dell'anno. Nel suo momento di forma migliore, la sfortuna bussa di nuovo alla sua porta. A Maiorca, durante un'uscita di allenamento, si scontra con un ciclista. Ma stavolta il destino rende quello che si era preso anni prima. Monique ritorna ad avere sensibilità alle gambe. Giornate lunghissime a fare un passo e a cadere, finché il 20 novembre 2010, in occasione del suo 26esimo compleanno, annuncia «I can walk again», «Posso camminare di nuovo». E così i suoi obiettivi cambiano, come se avesse semplicemente scelto una disciplina sportiva diversa. Camminare tutto il giorno, iniziare a correre, finire una maratona, partecipare alle Olimpiadi e poi punti interrogativi. Perché da una donna così ci si può attendere veramente tutto. Tornerà a Roma il 20 marzo, dove ha vinto nel 2007 e nel 2008, con una 4 km non competitiva. Per una persona normale sarebbe già un miracolo, ma Monique non vuole sognare, vuole soltanto correre. Certo, questo è incredibile. Quattro incidenti. Tra l'altro poi il problema è che dopo il primo incidente lei non riusciva a guarire, l'operarono malamente e a quel punto la gamba si gonfiò, divenne rossa, prima la sinistra, la perse completamente, poi la destra e perse anche la destra. A quel punto lei disse io non voglio mollare, nel suo sito c'è una frase di Nietzsche, ciò che non mi uccide mi rende più forte, sì. Che messa in un altro contesto non apprezzerei, nel suo sito ci sta alla grande, e lei ha continuato a lottare, è diventata una grande atleta delle Paralimpiadi e poi un altro incidente, ha sentito un formicolio e pian piano non ci poteva credere. Pazzesco. Aumenta il formicolio, adesso c'è un'immagine bellissima su internet, lei arriva con la carrozzina, si alza, per terra c'è un po' di ghiaccio, fa una piccola corsetta e scivola. E ti assicuro che è un'immagine veramente straordinaria. E la cosa assurdo, bellissima, il miracolo è che è un altro dei tanti incidenti che ha certo, la possibilità di tornare di nuovo a camminare. Questa ti mancava, No, se non sbaglio lei ha 26 anni, però il discorso per quanto riguarda i medici, adesso ho visto che comunque avevo un attimo anche la tecnologia che ci aiutava, la cosa più importante è quello che dicono i medici, che un recupero inspiegabile, che al 100% dei casi non puoi assolutamente recuperare, non c'è questo miracolo, quindi non si può definire forse neanche un miracolo per la medicina. E poi la mia curiosità principale è un'altra, se mi confermate a 26 anni? Sì. 20 novembre ha compiuto 26 anni. 26 anni più della sua esistenza sulla sedia a rotelle. Adesso quindi lei... 13 a 13. Sì. E lei ha detto che per lei pazzesco. Adesso ogni giorno è Natale. Pazzesco. È straordinario. Questa è veramente pazzesca. Massimiliano, Milano, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questa scheda che avete fatto, che è veramente bella. È una cosa che colpisce, ma sì. Ti interrompo un attimo. Ringrazio pure a Zorzi. Perché... Ti interrompo perché c'è una cosa bellissima. Nei blog che parlano di Monique c'è una cosa bellissima. Dicono, e adesso, dopo gli approfondimenti di Bruno Vespa su Porta a Porta con i plastici di Avetrana e di Cogne, vogliamo che dedichi una puntata a questo miracolo. Aspettiamo con fede. Bisogna fare attenzione a non proporglielo perché rischiamo di vederci appunto il plastico della sedia a rotelle. Non sarebbe bellissimo. I super esperti, no, è possibile. Dica. No, volevo dire questo: io condivido il giudizio di Zorzi sul ritorno di, Peterson a Milano. Io sono, come dire, tifoso da sempre di Milano. Non c'è nessun giudizio negativo sulla persona, sull'uomo, sull'allenatore straordinario. Dico due cose: mi sembra che dal punto di vista proprio di strategia, di squadra e di azienda, tra virgolette, sportiva, ci sia una scelta di grande respiro. D'altra parte, il basket, forse a differenza del calcio, ha una, come dire, vede nell'allenatore una presenza fondamentale. Siena ha iniziato malissimo, ha una persona straordinaria in panchina, si è ripresa, si è ricostruita. Milano ha una squadra fortissima e per motivi probabilmente dovuti anche a una chimica che con l'allenatore non si era creata, non giravamo, giravamo un tempo, due, e poi a un certo punto ci si sfaldava. No, certo, Coach Peterson è arrivato e credo abbia fatto una cosa molto semplice, ha detto: voi cinque siete quelli che giocate. Certo. E quindi con un metodo... Però capisce come ha avuto un effetto taumaturgico su tutto l'ambiente, no? Perché a Milano, come lei ben sa, non si è parlato d'altro per 10 giorni. E i giocatori in quel caso fanno fatica a scaricare le responsabilità. Ah, certo, sicuro. Quindi sicuro. Il grande vantaggio di Dan Peterson della società è quella di riuscire a togliere un po' di alibi ai giocatori, che devono dire: adesso devo dimostrare in campo che sono capace di giocare e via dicendo. Quindi questa è una delle grandi scelte positive che ha fatto Milano. Poi sul resto ne abbiamo già discusso. Sì, poi c'è anche chi scrive: ma secondo te, secondo Zorro, il ritorno di Peterson è uguale a quello di Schumacher? Non condivido, scrive l'ascoltatore. No, perché Schumacher era proprio... no. Però Schumacher ha fatto male a tornare. Sì, quindi sì, ho dei ritorni positivi, a parte quello di Monique. ne ho visti pochi. No, ma su questo sono d'accordo. A parte alcuni casi che però sono totalmente sui generis, come quello ad esempio di Michael Jordan, che smise per motivi pseudo misteriosi, ma quando era ancora il numero uno al mondo è tornato ad essere il numero uno al mondo dopo essere andato un po' in giro a giocare a baseball, insomma. Ma quello non era un ritorno. Ritorni veri sono questo, quello di Schumacher, quello di Armstrong, eccetera, e non hanno mai portato... oltre a quello di vari pugili, non hanno mai portato prodotti sportivamente positivi. Per la verità credo che ci possa essere anche un buon ritorno, anche se i risultati non sono positivi, a patto che il protagonista reagisca bene. Cioè, se Schumacher avesse accettato di andare più piano degli altri, senza fare grosse polemiche, si diceva: Schumacher, vabbè, non sei più il grande campione di una volta, però ti piace stare, non puoi far altro che stare in pista. Legittimo. Non puoi però lamentarti e voler essere trattato da grande campione quando non lo sei più. Quando non lo sei più. Michele, abbiamo una cinquantina di secondi per raccontare la tua settimana che verrà. Addirittura? Sì. Allora volete farsi qualche secondo in più? Poco sonno, pochissimo. Poco sonno, la domenica si parte con la trasmissione quando c'è il campionato. Per fortuna sabato e domenica un po' si ferma il calciomercato. Le trattative si spostano dagli alberghi milanesi, Hilton, Gallia e Auriga, quelli misteriosi. Poi l'Ata Hotel Executive è quello ufficiale, ma soltanto per 4 giorni a gennaio. Quando ti svegli con 12 telefonate, chiamate perse, devi richiamare tutti e 12 verso le 8:30, 9 del mattino, quando sei andato a dormire alle 3. Messaggini, come accaduto per la vicenda di Marilungo nel passaggio all'Atalanta, 5 milioni di euro. Voi ridete perché vi ho raccontato la storia a microfoni spenti. Gelosie. Arriva il messaggino a 00:40 del procuratore: Marilungo ha firmato con l'Atalanta. Il tempo di chiamare subito ai ragazzi al sito, spara, è ufficiale. Marilungo va all'Atalanta, domani firma. Poi ero a cena con un collega che si occupa di mercato, arriva lo stesso messaggio al collega, sempre dello stesso procuratore: scusa, ma che gioco stai giocando? Così, poi, non così si tutta fa. La settimana, vai. 50 secondi. Grazie davvero. Grazie a Michele Criscitiello. Grazie ad Andrea Zorzi, Giorgio Lucchi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Noi torniamo dopo con lo sport domani pomeriggio dalle 4:30 alle 7 calcio, 8:30, 9 basket come al solito ogni domenica. Buona serata.